Episodio 14. 18-19. Ascolta le pubblicità. 848-833-888 Zuritel. Buongiorno. Senta, il mio bambino tra poco compie gli anni. Sì? Io e mio marito vogliamo regalargli un'auto, ma l'assicurazione quanto costa? E il suo bambino quanti anni ha? Va per i 35. Beh, ormai è un ometto. Capisco. Ha fatto bene a chiamare l'848-833-888. Con Zuritel si risparmia davvero. Assaggia Zuritel all'848-833-888 oppure zuritel.it. Si chiama Biathlon, il robot a due teste di un famoso cartone animato giapponese. Un mezzo a due ruote usato nella guerra del Peloponneso, uno sport invernale in cui si percorre con gli sci da fondo un anello di neve per poi tirare con la carabina. La risposta durante i consigli per gli acquisti. Acquista subito il tuo biglietto per il Biathlon e vivrai l'emozione dei 20esimi giochi olimpici invernali. Informati presso le filiali San Paolo e delle banche del gruppo e su torino2006.org. Eccoci qui, siamo tra i monti incontaminati dell'Abruzzo, dove sgorga l'acqua Santa Croce. Ve lo dico sempre, l'acqua che beviamo è importantissima per l'organismo e quindi prima di sceglierne una leggete bene l'etichetta. L'acqua Santa Croce è olio minerale, ha un giusto residuo fisso, un basso contenuto di sodio e di nitrati e dunque è leggera e pura. Confrontatela con le altre e confrontatene anche il prezzo. Acqua Santa Croce, qualità trasparente.